pastore Di Lorenzo. Diamo, passo la parola all'avvocato Amato dell'Associazione Giuristi per la Vita. Che cosa è l'attività genere? Vedete, questa domanda non fa più parte degli interessi di qualche speculazione degli accademici. Sta diventando concretezza. Sapete qual è il dato interessante che io riscontro ormai in questo mio giro vagare quasi quotidiano per l'Italia tenendo conferenze sul tema? Che della cosiddetta teoria gender non sa niente nessuno. Ma non solo c'è una grande ignoranza, c'è anche molta confusione. Qualcuno confonde la teoria gender con l'educazione sessuale. Dice, no, ma io sono a favore della teoria gender perché è giusto che i ragazzi a scuola apprendano come sono biologicamente strutturati. Qualcun altro la confonde con la parità tra uomini e dice, no, io sono a favore della teoria gender perché è giusto superare gli stereotipi per cui la donna la stira al marito, no? Qualcun altro la confonde con l'omosessualità e dice, no, ma io sono a favore del genere perché è giusto rispettare anche chi ha un orientamento sessuale diverso. Peccato che la teoria genere non è nessuna di queste due cose. Io cerco di spiegare in maniera molto semplice, però il concetto è semplice. È tanto semplice quanto è razionale, ma è semplice. È l'idea per cui uno è maschio o femmina, uomo o donna, non in base al dato oggettivo di come è biologicamente strutturato, ma in base a quello che sente di essere. Questa cosa appare evidente in tutta la sua assurdità. Papa Francesco, parlando ai giovani a Napoli, ha definito la teoria gender uno sbaglio della vita umana. Eppure, nonostante questo carico di razionalità, la teoria gender sta dilagando nell'opinione pubblica attraverso quattro canali. Il canale normativo, la legge, il canale giudiziario, la magistratura, il canale culturale, i mass media e il canale educativo con l'indottrinamento che ci vuole. Vi faccio alcuni esempi così è chiaro come dico se no. Vedete, il 9 luglio 2013 in Commissione Giustizia della Camera è stato approvato il testo unificato, il testo usato proprio come testo base, il cosiddetto disegno di legge Scalfarotto per combattere l'omofobia. Bene, l'articolo 1, lettera B, di quel testo diceva esattamente così, due punti virgolette, attenti. Ai fini della legge penale si definisce per identità di genere la percezione che un soggetto di sé come appartenente al genere femminile o maschile, e ancora, anche se opposto al proprio sesso biologico. Punto. Legge di Stato, immaginate le conseguenze che sono sul femminicidio, le quote rosa. Il giorno dopo, 10 luglio 2013, noi come giuristi per la vita abbiamo denunciato un po' la follia di questa cosa, giuridica di questa cosa. È partita una campagna di mobilitazione che ha fatto sì che il 22 luglio 2013 quell'articolo fosse eliminato dal testo unificato. Ma attenti, perché quello che è uscito dalla porta della politica è rientrato dalla finestra della magistratura. perché qualcuno di voi l'avrà sentito dire, ma lo scorso 4 novembre la prima sezione civile del Tribunale di Messina ha emanato una sentenza che contiene questo principio: l'identità di genere di una persona può prescindere transitoriamente o definitivamente dall'intervento chirurgico che modifica i suoi caratteri sessuali primari. Che cosa è accaduto? Che un ragazzo di 21 anni si è recato all'ufficio anagrafe del Comune di Messina e ha chiesto, anzi ha preso, che nella sua carta d'identità venisse indicato come sesso femminile e attività lavorativa studentessa universitaria. Funzionario dell'ufficio ovviamente fa presente al ragazzo che non si può. C'è una legge, come abbiamo sentito prima, dell'82, una legge che consente il cambio di sesso, ma lo subordina a un'operazione chirurgica. Dice al ragazzo: guarda, vai, fai l'intervento, torna e poi regolarizziamo tutti i vari documenti. Questo ragazzo dice: no, non ci penso per niente. Io non ho intenzione di sottopormi ad alcun. Io sono donna perché mi sento donna e voi avete il dovere di certificare. Ovviamente il funzionario regionale è costretto ad esprimere un diniego, un rifiuto scritto. Il ragazzo impugna questo diniego e il tribunale gli dà ragione. Con una sentenza che tra l'altro è anche ben articolata e interessante, i giudici di Messina dicono che l'identità di genere di una persona di questa genere dipende da tre fattori: il corpo, l'autopercezione e il ruolo sociale, che devono concorrere. E nel caso specifico di questo ragazzo, analizzando appunto quel caso, dicono che lì il corpo avesse un rilievo minore rispetto agli altri due elementi che dovevano ritenersi prevalenti. Quindi il Tribunale di Messina accoglie la domanda del ragazzo e con la sentenza ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di modificare l'atto di nascita di tutta la documentazione relativa. Noi abbiamo già in Italia un uomo, un maschio, una persona titolare della coppia cromosomica XY, che per la legge è donna, ha gli effetti burocratici. Se questo ragazzo volesse avvalersi del vantaggio delle cosiddette quote rosa, potrebbe farlo. Anzi, in teoria, se questo ragazzo volesse anche sposare un uomo, potrebbe farlo. Perché burocraticamente parlando, dal punto di vista documentale, è donna. Vedete come la teoria genere, che non ha nulla a che fare con l'omosessualità, nonostante gli strepiti dei detrattori che proprio non esiste, sta avanzando anche attraverso il braccio armato. Poi c'è il canale culturale. Qui potremmo passare tutto il giorno a raccontarci come mass media, televisione, carta stampata stanno propagandando questa idea. Vi cito solo un caso che è capitato a me personalmente. I primi di maggio, dopo aver tenuto una lezione all'Università Lateranense agli studenti, sono tornato in treno e nel posto che mi era stato assegnato dal biglietto ho trovato una rivista, Grazia, probabilmente lasciata dal viaggiatore che mi aveva visto. La sfoglia distrattamente vengo colpito dall'immagine di un bambino che è vestito da lui, da uomo, tanto di completo nero, giacca e cravatta. E il titolo mi colpisce: Generazione di sesso. Leggo: si veste da maschio, si fa chiamare John. La figlia di Brad Pitt, Angelina Jolie, è diventata l'esempio più eclatante di educazione neutra, senza barriere di genere. Non è un caso isolato dagli Stati Uniti all'Italia. Grazia indaga. E sapete cosa dice Grazia in questo servizio? Magari la casalinga che lo legge mentre in attesa del suo turno a partire. Questo: in effetti, sono sempre più i genitori, gli insegnanti e gli esperti che sostengono che bisogna educare i propri figli secondo il genere neutro. E spiega identifica benissimo questo servizio, grazie a che cos'è il genere, per cui si decide cosa essere. E spiega come è training avere la figlia come la figlia del giudice giudice. E sappiamo quanto è emotivo, ahimè, il sistema del mondo sui venti dei protagonisti del star system. Poi c'è il dottrinamento scolastico. Vediamo come questa cosa qui, questa teoria viene propagandata anche nel scolastico. Ora vedete, c'è un fatto di cui bisogna dare conto. La teoria gender sta avanzando attraverso un cavallo di Troia, cioè l'idea che bisogna contrastare il fenomeno della cosiddetta omofobia. Ma anche su questo le idee non sono chiarissime, sul concetto dell'omofobia. Vedete, oggi in Italia nessuna legge definisce il concetto di omofobia. Neanche il disegno di legge Scalfarotto che vuole appunto contrastare questo fenomeno. E nessun magistrato in Italia fino ad oggi, in nessun provvedimento, ha mai definito cos'è l'omofobia. Ora vedete, questo non è molto simpatico. Se voi pensate che per la prima volta nella storia del nostro ordinamento giuridico si sta tentando di introdurre un reato penale, l'omofobia, senza sapere cos'è. Secondo voi chi sarà a definire i presupposti giuridici di questo reato? Chi? Chi? Chi? La parte si sente offesa. Ma questo non lo vogliamo. Ma chi decide in un processo? Scusate. Vabbè, colui che sarà chiamato a interpretare e applicare la legge, cioè il magistrato. Noi sapremo se quello che abbiamo commesso è reato al processo. Perché è tipico dei sistemi totalitari. In uno stato di diritto il cittadino deve sempre sapere preventivamente quali sono le conseguenze del suo comportamento, soprattutto se si tratta di conseguenze di carattere penale. Se tu fai quell'azione rischi una sanzione, ma prima del processo, non al processo. E perché dico che il contrario è tipico dei sistemi totalitari? Qualcuno di voi ricorderà che nell'ex Unione Sovietica, per esempio, vigeva il famigerato reato di attività antisovietiche. Bene, abbiamo appena festeggiato il 25esimo anniversario del crollo del muro di Berlino e a 25 anni dall'implosione di quel sistema totalitario, gli storici del diritto non sono ancora riusciti a ricostruire quali fossero i presupposti del concetto di antisovietica. Ma in realtà lo sapeva. Quel reato era volutamente lasciato indeterminato generico perché era rimesso alla discrezionalità, meglio all'arbitrio del giudice. Tu finivi davanti al procuratore del popolo che diceva quello che hai fatto è costruito, ce lo sapevo, e non importa, lo sai ora nulla. Solgenizzi insegna. Ora, in realtà noi in Italia però stiamo scivolando verso quello che io definisco il sistema britannico. È molto semplice, guardate. Neanche in Gran Bretagna la legge definisce cos'è l'omofobia. Sapete come hanno risolto il problema? Il Crown Prosecution Service, che corrisponde grosso modo alla nostra Procura della Repubblica, ha emanato una circolare e ha detto: poiché la legge non definisce cos'è l'omofobia, noi nel perseguire quel reato ci comporteremo così. Considereremo omofobo an incident which is perceived to be homophobic or transphobic by the victim or by any other person. Cioè, considereremo omofobo ogni atto percepito come tale dalla vittima, ma non terzo soggetto. Questo è il clima che stiamo vivendo. Guardate, questa scorciatoia della percezione, noi la stiamo già vivendo in Italia. Io l'ho personalmente sperimentata quando lo scorso 20 ottobre ho avuto l'opportunità di confrontarmi al liceo scientifico Cavour di Roma, con l'onorevole di nostro affatto. C'è stato un dibattito dei ragazzi, a un certo punto durante il dibattito a giustificazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso è emerso un ragionamento. Si è detto che l'unico criterio di cui bisogna tener conto per definire la famiglia è il sentimento, l'amore. Io intervengo, no, scusa, mi permetto di dissentire. L'amore è uno dei criteri, ma ce ne sono altri. La bipolarità sessuale, l'istinto procreativo, la finalità educativa. Ed elenco tutti i criteri che configurano anche giuridicamente la famiglia. Perché dissi, se noi utilizziamo come unico criterio per definire la famiglia l'amore, e facciamo definire che cos'è una famiglia al Parlamento una maggioranza, ma noi potremmo arrivare, per assurdo, a paradossalmente sostenere che sono 5 donne reciprocamente unite al vincolo affettivo fanno famiglia, perché no? O 3 donne e 3 uomini, o addirittura dissi un uomo e un cane, se noi consideriamo l'elemento affettivo che lega gli uomini e le mani. Se il mio criterio è questo, o l'avessi detto, il scaffalotto si è alzato, mi ha puntato un dito, che vergogna, lei da dedicare il mio Federico, al mio compagno. Fate che è molto di studio, perché se dicono del cane, non so. Perché io ho raccontato questo? Perché quando lui uscì, questa è la percezione che lui ha avuto, quando è uscito, ha chiamato l'ANSA, i giornalisti, e ha fatto la sua versione, quello che lui aveva percepito. Ovviamente, il giorno dopo, il Corriere della Sera, il Messaggero, Repubblica, danno a tutti la notizia titolando così: l'avvocato Amato equipara gli omosessuali. Io sono subissato dalla richiesta di chiarimenti a tutto il mondo, mi dico, sei impazzito. Sono costretto a ripetere per 150 volte il ragionamento che ho appena fatto. Ma quando una giornalista di una di quelle tre testate che vi ho nominato, che tanto mi conosceva, mi chiama e dice, sì, avvocato, si capisce il ragionamento che devo fare, si capisce anche che lei non voleva offendere nessuno, ma lei ha sbagliato. Dico, perché scusa? Perché lei, sapendo che dall'altra parte aveva un omosessuale, Scaffarotto, avrebbe dovuto capire che quelle parole sarebbero state percepite come offensive. Scusi, allora non è omofobo il tenore letterale di quello che non dice che so scrive, ma come viene interpretato, lei fa esattamente così. Ecco la circolare del campo di social service. E lei è il nostro problema. Così lei vede il mio diritto a aiutare il mio. Perché se io dico una fesseria, dico una cosa intelligente, deve dipendere dal merito di quello che dico, non dall'orientamento sessuale del mio interlocutore, che tra l'altro posso anche non conoscere, perché nessuno porta scritto in fronte omosessuale. Ma questo è il clima di questo convivio. Ora vedete, a me tutto sommato è andata anche abbastanza bene. C'è che è andato peggio. Avrete sentito parlare a questo caso del mostro di un cadiere. All'inizio di novembre dell'anno scorso, un insegnante di religione, la professoressa Adele Carabino, docente dell'ITIS Pininfarina di Moncalieri, entra in classe per fare una lezione, tra l'altro sul tema di bioetica. Comincia la lezione quando a un certo punto uno dei ragazzi della classe, a freddo, le fa una domanda. Dice, professoressa, cosa pensa lei dell'omosessuale? Poiché sapete, questo ormai è diventato un campo minato, un terreno spinosissimo, l'insegnante tenta di glissare la domanda una volta, due volte, tenta di riportare la lezione al tema originale, ma vista l'insistenza quasi ossessiva di questo ragazzo, che poi si è scoperto essere un omosessuale triste dal cervello, questo insegnante è costretto a rispondere. E cosa dice questa donna? Dice quello che tutti noi potremmo leggere su Wikipedia. Cioè, che non esiste una teoria unica sull'origine di questo orientamento sessuale. Sono varie teorie, c'è cioè la teoria innatista, che dice che si nasce così, la teoria volontaria, che si sceglie, la teoria psicologica, che si condiziona, eccetera, eccetera. E quando questa insegnante affronta l'aspetto della teoria psicologica, dice che a volte chi vive con disagio questa condizione, non chi l'accetta, chi vive con disagio questa condizione attraverso dei percorsi psicologici può trovare un proprio equilibrio. e fatti in alcuni casi io faccio comunque di donne. Che quella fosse una trappola si è scoperto il giorno dopo, quando Repubblica ha intitolato Lezione shock, due punti. Insegnanti di Moncalieri sostiene che gli omosessuali sono malati che devono curarsi. Parte un messaggio mediato sul giornale che potete ben immaginare. Per 24 giorni, 24 giorni, questi insegnanti sottoposti a un procedimento disciplinare interno di inchiesta della scuola. 5 parlamentari della Repubblica Italiana presentano un'interrogazione al ministro di istruzione contro questi insegnanti. Il presidente della commissione istruzione del Senato, il senatore Valducci, presenta un'interpellanza urgente al ministro di istruzione contro questi insegnanti. L'assessore alle pari opportunità della regione Piemonte, Monica Cerutti, ricordate questo nome, apre una procedura a carico dell'insegnante presso il centro antidiscriminazione regionale. Il consigliere comunale di Torino, Silvio Viale, chiede che l'insegnante sia sottoposto a un corso di rieducazione. Il vice sindaco di Moncalieri, Paolo Montana, chiede provvedimenti esemplari a carico di questi insegnanti licenziamenti di tronco. Per 24 giorni questa donna è costretta a non uscire di casa. Perché? Perché ci prova soltanto due volte i primi due giorni per andare a fare la spesa, ma quando al supermercato viene additata da tutti. Come guarda l'omofobo del giornale, questa donna non esce. Ma neanche in casa, chiusa, a pace. Perché mentre in casa, chiusa, con sua somma sorpresa, alla televisione, si vede sbattuta la sua storia con uno psicologo che la psicanalizza in modo visione senza averla né mai vista né mai conosciuta. Psicanalizza l'omofobo. Dopo 24 giorni. Dopo tutti gli altri alunni della classe, interrogati uno ad uno, hanno confermato la versione dell'insegnante e sbugiardato il compagno, questa donna viene totalmente scagionata. Ma perché gli ho raccontato questa storia? Perché dopo che anche Repubblica è stata costretta a dare la notizia che aveva ragione l'insegnante, nessuno ha chiesto scusa, né i politici, né i giornalisti e neanche i dirigenti scolastici. Sapete perché? Qual è la questione ufficiale? Perché il ragazzo aveva capito così. Quello che contava era la percezione di quello che era stato detto, non il tenore letterale di quello che era preso. Anzi, sapete come è finita questa storia? Che a questo ragazzo è stato proposto un 10 di condotta, che poi è diventato 9, perché così aveva percepito. Se per qualunque altro motivo un ragazzo avesse calunniato l'insegnante, l'avesse fatta finire con un tritacarne mediatico con tutti i danni, fosse stato sbugiardato dai compagni, sarebbe stato sospeso vivo per 15 giorni, qui viene premiato. Ora potremo andare avanti tutta la sera, avete capito che qual è il rischio della scorciatoia della percezione? Ci sono tantissimi casi. Per farvi capire com'è pericoloso lasciare indefinito e generico il concetto di omofobia, vi do un ulteriore elemento di riflessione. Alla fine di gennaio del 2014, un anno e mezzo fa, io vengo in possesso, in anteprima, cioè prima che venissero distribuiti i telefoni, di tre opuscoli, tre imperti del governo, anzi per esattezza del NAR, che l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale. È un ufficio del Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ufficio governativo. I libretti si intitolano Educare la diversità a scuola. Sono tre. Tre perché destinati alle elementari, alle medie, alle superiori. Io vi leggo, ci sono anche note di colore. Per esempio, si dice in questi libretti del governo che persino nell'elaborazione dei problemini di matematica bisogna tener conto delle nuove figure omogenitoriali. Fa un esempio. Esempio due punti. Rosa e i suoi due papà vanno a comprare due o tre lattine di freddo al bar. Se una lattina costa 2 euro, quanto hanno speso? Mi si può ridere. Quello che invece mi ha fatto leggere letteralmente sobbalzate sulla sedia e quando ho letto nelle tre premesse di questi opuscoli del governo che cosa il governo voleva che i docenti insegnassero ai bambini all'Italia, grazie ai miei superiori, sul concetto di omofobia. Cos'è l'omofobia? Ora, se voi fate mente locale a quello che ho detto all'inizio, cioè che si sta introducendo un reato senza sapere cos'è, quando ho letto come il governo vuole che si insegni, beh, è un indizio interessante per capire di cosa stiamo parlando. E lì è stato l'asino. Perché nelle premesse di questi tre libretti c'è scritto che l'omofobia si ricava da vari criteri, tra cui quattro, attenti, due punti virgolette. Primo, il grado di religiosità di una persona concorre a configurare il suo profilo di uomo. Secondo, credere ciecamente, ci sono pure questo termine, mi ricordo il governo, ciecamente, credere ciecamente nei precetti religiosi è l'omofobia. Terzo, sostenere che l'omosessualità è un peccato è omofobia. Quarto, sostenere che l'unica attività sessuale lecita è quella aperta alla vita, finalizzata con creazione, è omofobia. Io quando ho letto questa roba, se questo è il concetto che il governo ha di omofobia, io sono dichiaratamente omofobo, convintamente omofobo, orgogliosamente omofobo. Evidentemente il problema è esagerato. Che cosa faccio? Contatto con loro che ritengo essere i diretti interessanti, Acerbi e Aveglia. Infatti, l'11 febbraio 2014, Avvenire pubblica un mio editoriale in cui denuncio le cose che vi ho appena detto, virgolettate. Tre giorni dopo c'è la reazione politica. Interviene l'allora sottosegretario delle pari opportunità Cecilia Guerra, che è responsabile, era responsabile politico di Luna, e a nome del governo prende le distanze da questa iniziativa. Grave quello che ha scritto Luna, il governo non sapeva nulla, anzi annuncia una lettera di demerito a Marco De Giorgi, direttore di Luna. Interviene anche il sottosegretario dell'istruzione Gabinetto Cafoni, che dice che il Ministero dell'Istruzione non sapeva nulla di questa lettera. Gravissimo quello che è stato scritto, tutta colpa del direttore. Doveva assumersi la responsabilità. Dopo un balletto che è durato diverse settimane, perché ovviamente le associazioni LGBT volevano che questi libretti venissero comunque diffusi in tutte le scuole. Agli insegnanti. Agli insegnanti, cioè per spiegare perché gli insegnanti spiegassero ai ragazzi che cos'è l'omofobia, cioè che sostenere che non si sono tanto creato l'omofobia. Dopo un balletto che è durato diverse settimane, alla fine, fortunatamente, il Ministero dell'Istruzione il 5 aprile 2014 blocca questi libretti con una circolare e li manda in cantina. Ora vedete, questa storia del ritiro dei libretti del canale ci dimostra qualche cosa. Intanto ci fa vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Il bicchiere mezzo pieno è che è triste pensare che se io non avessi avuto i libretti di anteprima, ma soprattutto se Avvenire non avesse pubblicato editoriale, oggi quella roba sarebbe in mente di scuola. Il bicchiere mezzo pieno è che invece bisogna combattere, perché a volte si può anche vincere. È un errore restare inerti e rassegnati di fronte al minutaggio perché tanto ormai è tutto perso. No, bisogna combattere. L'altra cosa grave che ci insegna questa vicenda è la seguente, attenti. Seguitemi. Se la legge non definisce con dei paletti precisi che cos'è l'omofobia, capite che ognuno è libero di dare a questo concetto il contenuto che vuole, con una differenza banale. Che se la fesseria la scrive il governo, nada, si può fare marcia indietro. Se un giudice a scriverla si finisce dentro, la capite la differenza? La capite? Meno male. Ora vediamo invece come questa teoria sta il quarto canale, l'indottrinamento. C'è un documento del governo che si intitola Strategia nazionale per combattere la discriminazione dovuta all'orientamento sessuale di genere. punto guagliano, tocca tutti i punti più delicati che ci sono chiamati, l'asse sull'educazione, il lavoro, la sicurezza, la comunicazione sociale. Per quanto riguarda l'asse educazione, il documento è esplicito. Esordisce dicendo che, tra l'altro, è l'emanazione del documento dell'Europa, l'obiettivo è diffondere la propria gente nelle scuole attraverso iniziative finalizzate alla creazione di un proprio processo di identità di genere. Abbiamo capito, avete capito cosa è l'identità di genere, no? Ora, questo documento dice che da qui al 2015, cioè entro la fine dell'anno, abbiamo 6 mesi, in tutte le scuole, dobbiamo diventare, bisogna introdurre corsi di formazione sui diritti LGBT per personale docente e non docente, eliminare tutta la linguistica didattica e amministrativa che discrimini la famiglia omogenitoriale, cioè genitore 1 e genitore 2 al posto di padre e madre, obbligatoriamente in tutte le scuole. Accreditare le associazioni LGBT come enti formativi presso il Ministero dell'Istruzione, ACGEI, CASLO, enti formativi. Poi, siccome in italiano suonava un po' troppo forte, il governo ha utilizzato l'espressione inglese, che sono in moda, e dice nel documento bisogna introdurre l'empowerment delle persone LGBT a scuola. Empowerment significa dare potere, vedremo che potere è. Poi il governo dice nel documento che tutto questo va trasferito anche a livello dirigenziale e bisogna introdurre il concetto di diversity management, utilizza anche qui l'espressione inglese, che significa quote riservate alle LGBT in dirigenza e cose. Poi il documento dice che bisogna incentivare il camminare degli studenti e soprattutto bisogna introdurre il concetto di identità di genere, cioè dire ragazzi dovete guardarvi bene dentro per valutare se davvero siete maschi o femmine, uomo e donna, indipendentemente dal vostro sesso biologico. C'è un altro documento che sta dilagando soprattutto nelle scuole materne e primarie elementari, che si intitola Standard per l'educazione sessuale in Europa, un documento dell'OMS. Un documento che divide i giovani in fasce d'età, 0, 4 anni, 4, 6, 6, 9, 9, 11, 12, 15. Poiché, come dicevo, la fascia dove si sta diffondendo, soprattutto quella da 0 a 6 anni, questo documento dice che in quelle età lì, 0, 4, 4, 6, i bambini, tra le varie cose, devono essere introdotti alla masturbazione infantile precoce, alla capacità di identificare i genitali fino in dettaglio, all'esplorazione dei propri genitali con le compagne nel cosiddetto gioco del dottore, ma poi, che è peggio dei primi 3 mesi insieme, alla cosiddetta identità di genere, cioè dovete decidere se siete maschietti o femminucci. Ora vedete, noi come giuristi per la vita offriamo la nostra assistenza legale gratuita a tutti i genitori che incappano in questa rete. E dal gennaio del 2014 oggi le ho viste di tutti i colori. Sulla fisicità, chiamiamola così, la prima segnalazione è arrivata da Roma, quando un genitore, ascoltando un bambino di 6 anni che tornava da scuola e faceva discorsi un po' troppo specifici sul sesso, domande tipo papà posso esplorare i tuoi genitali per vedere il grande? Questo genitore ha immediatamente e istintivamente pensato all'intervento esterno. È corso a scuola, ha convocato tutti i maestri, e ha detto, aprite degli occhi che c'è qualcuno in strana situazione, mio figlio ha fatto questi discorsi, così così. E le maestre hanno detto, siamo stati noi. Stiamo applicando lo standard per e gli consegnano lo standard per l'educazione sessuale, però, il documento. Alla legittima reazione, leggendo siete pazzi, tutte le maestre, tutte, lo aggrediscono dandogli del cotto, dell'oscurantista. Ovviamente questo uomo prende il figlio e lo porta il più lontano possibile dalla scuola. Noi valutiamo anche se ci fosse un ministero di educazione primaria. Come definite voi un adulto che insegna a un bambino di 6 anni a toccarsi? Come? Sapete cosa hanno risposto a 30 anni? Un educatore, cioè un'assemblea composta di centinaia di persone che difendeva a spada tratta questa cosa qua. Tra l'altro, quando io racconto l'episodio dell'educatore di Trento, c'è qualcuno che non ci crede. Abbiamo scoperto che quell'incontro è stato videoregistrato. Abbiamo estrapolato il minuto e mezzo in cui io faccio una domanda retorica, chiedendovi, e la seguirà che dice, io resto quasi, l'abbiamo messo su YouTube. Se voi andate su YouTube potete trovare questa scena qua. Tant'è che uno mi ha scritto, avvocato, io l'ho ascoltata alla conferenza. E quando lei ha tirato fuori la storia degli educatori di Trento, sinceramente ho pensato fosse una bufala, una balla per esagerare. Ma quando ho visto con i miei occhi e ho ascoltato con le mie orecchie quel video su YouTube, sono rimasto scioccato. Le chiedo scusa per non averla creduta. È incredibile, ma c'è gente che difende e applica questa parola. Ora però vedete, qui siamo nel campo della natura. Perverso fattore della natura. Genità, situazione. Quando questa è diventata agghiacciante, torniamo al tema, è il genere. L'idea per cui si deve scegliere se si mantiene qui, la fantasia di sperimentazione di una vita. Ci sono scuole dove fanno vestire i bambini e bambini viceversa, fanno giocare i bambini con le bambole, i bambini con i trenini, secondo un protocollo educativo norvegese. Adesso stanno invocando un decreto ministeriale 75 perché le nuove disposizioni sulla ristrutturazione delle scuole materne sono l'eliminazione della differenza di bagni tra maschi e femminucci, bagni e luci. Abbiamo scoperto perché una donna, una signora, una mamma ci ha spiegato che il figlio fa fatica a fare pipì con le bambine che lo guardano. Abbiamo scoperto che ci sono questi limiti. Nella scuola, nella vecchia scuola Mattei di Roma, scuola d'infanzia, truccano i bambini da donna, trucca il rossetto, grazie anche agli educatori esterni dell'associazione scossa. Nella scuola I Sei Colori di Ugo di Roma, scuola d'infanzia, l'anno scorso hanno deciso di cancellare la festa del papà per non discriminare una bambina che aveva una mamma lesbica. Ci dicono che all'ultima festa del papà sono diverse le scuole, stiamo monitorando, che hanno aderito a quell'iniziativa. Poi stanno circolando anche le altre. Le due principesse che si innamorano, vivono felici e contenti, con tanto di bacio sacro disegnato a libretto, o la fiaba del principe che si innamora su cui il capo si sposa, e poi capolavoro, dicembre 2014. Filastrocca, insegnata a memoria, ai bambini si intitola Più ricchi di un re. Emma è una bimba molto speciale, le piace vivere, correre, sognare. Le sue due mamme l'amano tanto e tutte e tre stanno in canto. Giocano, cantano, sono felici. Mamma Mimì, ma che dico agli amici? Dica ai due mamme che insieme noi tre siamo più felici. Emma Santella, tutta presso le vita, soffre di su, che bel dono della vita. Emma è una bimba molto speciale, piace vivere, correre e sognare. Le sue due mamme l'amano tanto, e tutte e tre stanno di canto. Gioca, canta, sono felici. Mamma Mimì, ma che dico agli amici? Dì che due mamme che insieme noi tre, siamo più felici più di me. Emma Santella, tutta presso le vita, soffre di su, che bel dono della vita. Immaginate la faccia dei genitori quando si sono vestiti, per citare. Ma i bambini, quando hanno chiesto, maestra, ma Emma, come fa ad avere quei bambini? Pronto il supporto didattico per quei bambini, perché le mamme. Mary e Franci si amavano e volevano fare una famiglia. Ma per fare un bimbo ci vogliono un uomo e una donna. La donna rovina la pancia e l'uomo mette il seno. Le Franci erano due donne, avevano solo figli, mancava il segno. Ma in Olanda c'è una clinica dove dei signori gentili donano i loro segni per chi non ne ha. Franci si è fatta dare un segno nella clinica olandese e l'ha messo nella pancia di me, dove ha incontrato il figlio. Margherita ha cominciato a crescere. Margherita ha due mamme, solo una l'ha portata nella pancia, ma entrambe insieme hanno messo al mondo, sono i suoi genitori. Ma è Franci, volevano una famiglia numerosa. Così dopo 4 anni, Franci si è fatta dare un altro segno e l'ha messo nella pancia di me. Che bella sorpresa. Nella pancia di me sono cresciuti due bambini vicini vicini, Giorgio e Raffaele. Sono passati altri 2 anni e le mamme sono ripartite. Questa volta è stata me a farsi dare un segno e a metterlo nella pancia di Franci, e nato un nome più loro. Ecco una famiglia numerosa, con due mamme, quattro figli e tre gatti. Vedete, questa è una storia autobiografica vera. Francesca Parti è la Franci, e Margherita, la prima bambina che è nata, è una di quelle bambine nel cui asilo hanno deciso di cancellare la festa del papà per non discriminare. Per i maschietti c'è un problema, perché i maschietti non hanno un asilo, ma c'è il supporto di Dante, perché aiuta papà. Franco e Tommaso si amavano, volevano fare una famiglia e avere dei bambini, ma per fare un bimbo ci vuole un maschio e una femmina, questo è l'unico dato che nessuna favola oggi discrimina. La donna veniva nella pancia e l'uomo mette il segno. Franco e Tommaso erano due uomini, avevano solo segni, mancavano di nome e non potevano neanche farlo. Crescevano nella pancia. Ma in America c'è un posto dove dei signori gentili, sono tutti gentili, donano i loro vini per chi non ne ha. Franco si è fatto dare un ovino nella famiglia americana. Ma non era sufficiente. Un ovino e un semino non possono diventare un bimbo se una donna non li fa crescere dentro di sé. Ma in America le donne possono decidere di far crescere la propria pancia quei bimbi che altrimenti non riuscirebbero a nascere. Lo fanno perché pensano che sia meraviglioso avere dei figli e vogliono aiutare chi non può farlo. E perché pensano che sia bellissimo permettere a un bimbo di nascere in una famiglia che lo aspetta. Tommaso ha conosciuto Nancy, una signora che aveva già dei bambini e una famiglia, ed era felice di aiutare Franco e Tommaso a costruire la loro famiglia. Così, nella clinica americana, i dottori hanno fatto incontrare l'ovino e il semino portati da Franco e Tommaso e li hanno messi nella pancia di Nancy. Lia ha cominciato a crescere. Lia ha due papà. Nessuno dei due l'ha portata nella pancia, ma entrambi, insieme, hanno messo il mondo. Sono suoi. Sapete qual è l'unica cosa vera di questo fatto? L'America. Sapete dove si acquistano? Perché donazione è un falso, la parola vera è compravendita, mercimonio. Dove si comprano i vaccini? Nei campus universitari americani, dove le ragazze, per pagarsi gli studi o l'affitto, vendono i propri vaccini. Ma non è mica così semplice. Non è come andare al banco dei beni e non c'è più di soldi. Ci sono dei criteri selettivi rigidissimi. Si guarda prima il quoziente intellettivo, poi le fortezze fisiche, il grado di cultura, i voti e la famiglia di provenienza. Devi essere bella, carina, intelligente e simpatica. E se su 150 domande hai la fortuna di essere scelta, perché sei bella, carina, intelligente e simpatica, sapete cosa consiste la ti sottopongono a una libera stimolazione umana, a un bombardamento ormonale devastante. Gli ovociti diventano grossi come acido di uva. E poi c'è l'operazione del cattivo, che è quella più pericolosa. Una nostra amica americana, Jennifer Lau, ha deciso di realizzare un documentario che si intitola Exploitation. Guardatelo, ha vinto un premio anche in Canada. Dove ha intervistato dei cinesi. Sapete qual è il dato che è emerso? Che moltissime di queste ragazze non possono più riuscire. Perché il bombardamento ormonale è talmente devastante che restano stretti. Altre ragazze hanno delle conseguenze fisiche gravissime. Perché è molto soggettivo questa cosa. Dipende da come sei disposto tu. Ad alcune donne non fa niente, per altre è devastante. Altre ragazze sono morte. Infatti intervista dei genitori con la cartella clinica che raccontano il carbone, l'assicurazione che non paga, le solite cose. Quindi Franco e Tommaso, la maschietta, la vanno in America, sì. Comprano i vaccini scegliendo bene e approfittando del bisogno di poi, siccome la materia preziosa che viene anche per fare il figlio, sapete che fa? Vanno in India, danno 500 euro alla disgraziata indiana, che tra l'altro deve firmare un contratto, io non l'ho letto in inglese, che ha una clausola interessante. Dice che nel caso in cui il prodotto sia difettoso, l'indiana si impegna contrattualmente ad abortire. Anzi, andiamo a riposo. Franco e Tommaso, i maschietti, prima mischiano lo sperma con la centrifuga, come ha fatto il gioco sul compagno, per non sapere di chi è. Poi vanno in America, approfitto del bisogno che i ragazzi pagano. Poi vanno in India a sfruttare il terzo mondo. Scusate, ma le femministe dove sono finite? meno pericoloso vendere un bene che fare tutto questo lavoro. Poi una volta si parlava di neocolonialismo, terzo mondo. Che cos'è quella cosa che succede in India? Si può dire che tutto questo è disgustoso? Si può dire? Provateci. Provate a dire che quella fotografia di quei due uomini col bambino in braccio, tutto nudo, che ha fatto il giro del mondo e ha commosso il mondo è disgustosa. Antropomorfe, vincono. Perché vedete, il mondo è cinico. Si commuove, ma non è una cosa. Voi vi siete dimenticati di Sushma Pandeya? Io no. Sushma. Sushma era una ragazzina, o più che una bambina, minorenne. Indiana, poverissima. Lavorava come schiava in un magazzino di contabili. Quando per fame e disperazione, questa ragazzina, questa bambina, falsifica i documenti per apparire maggiorenne e viene portata a Rotanda Center for Human Reproduction, una clinica di Mumbai che fa questa. Al terzo ciclo in cui viene sottoposta a Sushma, muore perché era troppo piccolo per il bombardamento ormonale. Sapete perché due anni fa questa notizia ha fatto il giro del mondo e ci siamo dimenticati tutti? Perché per la morte di questa bambina non ha risposto penalmente nessuno, a danno su una lefa. La clinica dimostrò che i documenti attestavano la giurità. E i tre mediatori, due uomini e una donna, che prendevano la provvigione dalla clinica per cercare ragazzine disperate in India, che hanno accompagnato Sushma tutti e tre i cicli, sono spariti nel nulla. Questa è dimostrazione che i ricchi e potenti vincono sempre, i poveri e gli oppressi sono sempre schiacciati. Io un anno e mezzo che c'ero in Italia, sono stato anche a Bologna, a Reggio Emilia, a Correggio. Sto cercando uno che si definisca comunista, che mi dica che nel XXI secolo esporre un minorenne a rischio della propria vita per entrare in una catena di contagio di questo tipo è etico e giusto. Ma un comunista vero, non un comunista da salotto, uno di quelli che rivendicano il diritto al provetto eterologo per le coppie omosessuali, oppure una comunista come l'assessore delle pari opportunità della regione Piemonte, Monica Cinuti, la ricordate? Quella che ha aperto la procedura a carico dell'insegnante di Moncalieri. Sapete cosa ha detto questa? Ha dichiarato questa informazione. Legare i figli delle coppie omosessuali, se avuti con la fecondazione assistita, allo sfruttamento delle donne, nel caso si tratti di persone non abbienti di altri ginocchini, è francamente un'aberrazione. E affermare che il riconoscimento dei diritti omosessuali avviene a danno delle donne è una bieca strumentalizzazione frutto di una concezione malata della fecondazione. Io ho scritto questo qua, pubblicamente, l'ho dato a YouTube. Monica, io sarò anche malato, sarò un bieco strumentalizzatore, sarò uno, come dici tu, che è aberrante, ma tu non puoi nascondere la coscienza dietro la maschera di bronzo della tua cinica patologia. Tu devi avere il coraggio di guardare negli occhi una bambina che muore per il desiderio, anzi il capriccio di un orecchio occidentale. Tu devi avere il coraggio di guardare negli occhi tutte le Sushma Pandeya che per fame e disperazione sono costrette a mettere a repentaglio prima la propria dignità e poi la propria vita. Detto, esci dalle sale della Mascate, il palazzo Mascaris, che era prestigiosa sede della regione Piemonte, e fatti un giro in India. Così puoi toccare con mano cosa significa fame, disperazione e sfruttamento. Ma non mi ha risposto. Torniamo al genere, poi torniamo. Tra le tante cose ce n'è una che mi ha colpito. Quando una mamma telefona e dice: senta, mia figlia è tornata a scuola e mi ha detto: mamma, la maestra ci ha insegnato che ci sono i maschietti, le femminucce e stellina. E la mamma dice: chi è stellina? E la bambina dice: mamma, stellina è tutti e due, maschietto e femminuccia. La mamma dice: no, queste sono stupidaggini. No, ma la maestra si sbaglia. No, mamma, attenti, perché in classe nostra ci sono tre stelline. Avete capito? Ne hanno già nominati tre. Ora, noi abbiamo una maturità e una capacità critica che ci consente di dire che questa cosa è una follia. ma da 0-6 anni questa capacità critica non c'è. E quello che sta accadendo è che il potere, in funzione ideologica, sta tentando di manipolare la fascia più manipolabile da 0-6 anni. Per creare questa antropologia, come dice il Papa, che è uno spagno della mente umana che genera confusione, e la cosa più terribile è che sta passando nell'indifferenza generalizzata, anzi peggio. Se tu ti opponi a questa cosa, sei un ricotto, un retrogrado, sei uno come detto a me che si oppone al progresso scientifico. Ma sapete qual è il progresso scientifico che ci avviene in Europa sul gender? Questo. L'anno scorso, 2014, il National Health Service, il Servizio Sanitario Nazionale Britannico, ha definitivamente autorizzato l'utilizzo di un farmaco. Il gonadotropin è un bloccante ipotalamico per bloccare a 9 anni la pubertà dei bambini e dare più tempo che decide se essere maschietto o femminile. Sapete come viene somministrato? Iniezioni mensili nello stomaco. Una puntura al mese nella pancia che nei maschietti blocca la crescita del pelo e il cambio della voce. Nelle femminucce blocca il ciclo e lo sviluppo del seno. Questo per rendere meno invasivo intervento chirurgico che poi si farà dopo la maggiorità. Noi avremo ragazzi di 16, 17, 18 anni imberbi e con la voce da donna e ragazzi di 16, 17, 18 anni senza mestruazione e senza seno. Dei transumani, degli androgeni. Ora, quando io ho raccontato questa storia di Donna Pertì, avevo un incontro, una sala parrocchiale, una donnina della parrocchia il giorno dopo scrive dicendo che io ero stato ideologico, che ero stato esagerato, e allegando un articolo del Corriere della Sera che parlava di Olanda. Il parroco mi gira tutto nella risposta. Allora, intanto spiego che Olanda non è la Gran Bretagna, ma non è una geografia, che quell'articolo del Corriere non c'entrava nulla, ma documento e spiego che l'SRS, la sigla che sta per Sex Reassignment Surgery, tradotto in italiano interessante, significa intervento chirurgico per la riassegnazione del sesso. Perché prima è stata modificata, prima era change sex, per il cambio, no, la riassegnazione. Sta diventando, ahimè, una moda diffusissima. Tant'è vero che ho legato uno degli articoli prestigiosissimi, Times, che proprio perché è un fenomeno di moda, ha deciso di dare un dossier, fare un dossier, affidandola alla firma di un giornalista d'inchiesta, Chris Smith, il quale ha dato diversi dati, tra cui uno interessante. Era un articolo del novembre 2013, che nel 2012, rispetto al 2011, i bambini che hanno ricorso a quella cosa qui sono aumentati del 50%. Sapete il numero di sono? 208 bambini nel 2012 contro 139 bambini del 2011. E tra l'altro costa 82 sterline a puntura. Se qualcuno di voi però pensa che questa cosa è ancora in Italia, in Gran Bretagna, in Europa, per piacere, legga l'articolo del dottor Angelo Passarella, medico, presidente del Movimento per la Vita di Firenze, che sul settimanale Toscana Oggi ha lanciato un grido di allarme, ovviamente mi ha ascoltato tutti. Ha detto che la regione toscana del governatore Rossi, che su queste cose può sempre essere all'avanguardia come meteorologi, su espressa richiesta di applicazione del gonadotropin per bloccare la pubertà all'ospedale Carinci di Firenze, sta esaminando la questione. Anzi, per l'esattezza, la questione attualmente è all'esame del comitato etico dell'ospedale Carinci di Firenze. Il gonadotropin è già alle porte di casa nostra. Allora bisogna dire a quella donnina della parrocchia che è ideologico e chi si rifiuta di vedere invece i fatti, dati, numeri, circostanze, in nome di un pregiudizio, non chiede denuncia. Comunque, sapete chi ha dato il giudizio più duro su tutta questa vicenda? Uno che ha detto questo: occorre rivendicare il diritto dei genitori alla priorità di educazione con i figli e opporsi a ogni tentativo di sperimentazione educativa su bambini e giovani, utilizzati come cavi da laboratorio in scuole che ricordano sempre di più i campi di rieducazione e gli orrori della manipolazione educativa delle dittature genocide del XX secolo, virgola, oggi sostituite dalla dittatura del pensiero. Sapete chi è stato? Papa Francesco, l'11 aprile 2014, nel discorso che dice. Ora si può anche non essere credenti, atei, ma non riconosce in quest'uomo comunque un minimo di autorità morale. Come si fa, scusate? O il Papa è un pazzo, uno che farnetica, uno che straparla, che usa parole male. Ma come si fa di fronte a espressioni come dittatura, campi di rieducazione, cavi da laboratorio, a restare indifferenti? È quello che sta accadendo. Quello che sta accadendo in questo momento. La cosa più incredibile, sapete qual è? So che farete, vi sembrerà assurdo, ma sapete che c'è gente che non sa niente? Delle finestrocche, delle grandi gratitudini, non sa niente. Vi sembrerà assurdo, ma credete, c'è gente che non sa nulla dello standard della masturbazione, nulla di tutto questo. E questo è capitato anche a me, guardate. Quando a gennaio del 2014, un anno e mezzo fa, sono stato a Firenze, al Palazzo Vecchio, a fare una conferenza sul PDL da Forologio, quando sono tornato, io e mia moglie siamo stati invitati a cena a una casa a coppia d'oro con degli amici. E mi hanno chiesto cosa sono andato a fare a Firenze, ho spiegato quella cosa. Poiché non sapevano nulla, assolutamente nulla, nonostante lui faccia l'imprenditore e lei sia superiore, mi chiedono cosa ero andato a fare. Comincio a raccontare e dopo un po' questo mio amico si stufa. Dice, no, tu sei esagerato. Il Parlamento italiano non avrà mai una legge così assurda. E ho detto, no, guarda, già provato. Alla Camera. Quando? Il 19 settembre. Sì, quando? Era meno convenito, ma noi non sapevamo nulla. Non ci siamo accorti. Ecco, quando ho usato quell'espressione, noi non lo sapevamo, noi non ci siamo accorti, mi si è accesa una lampadina. Ho capito una cosa che non era stata mai molto chiara. Come se è stato possibile che i tedeschi, sotto il regime nazista, con la Gestapo, la Stella Mente, la Franchi, i valori piombati, alla fine se ne siano usciti dicendo noi ci siamo accorti e noi non lo sapevamo. A me, sinceramente, è sempre sembrato, scusami un po' però invece no, amici, può accadere, sta accadendo. È possibile che fra 10, 20, 30 anni, c'erano queste cose, hanno approvato una legge così. Nessuno si è accorto, sì, nessuno si è accorto, nessuno sapeva. Con una differenza, una gravante, che i tedeschi non avevano neanche la televisione, noi abbiamo persino internet. Io lo dico sempre ai giovani, di quanto tu, quanto pensi che sarà incredibile quando i tuoi nipoti ti diranno, no, no, ma tu dove eri? Ah, io non mi sono accorto. Nel XX secolo, nell'era di internet, con il Papa che tutti i giorni non ce la metteva più, non ce la... ma chi sarà credibile? Aveva ragione Anna Arendt, leggete la Donalità del Male, capisci? È così, guardate, la libertà si perde così più. Io una sera, in una parola, in un incontro, vedo a un certo punto arrivare una donna anziana, molto anziana, dico, ma questa da più di 90 anni, si siede, annuisce, flaute. Io incuriosito alla fine vado da questa donna. Scopro che ha 97 anni, lucidissima. E le dico, certo, lei è società, occupasi ancora di questi temi, ecco, mi ami. E questa mi fa no. Sono venuta a fare quello che non ho fatto 80 anni fa. Dico, non capisco se è una cosa che non intende. Vedi, quando in Italia sono state approvate le leggi razziali, mica gli italiani sono scesi in piazza per la stragrande maggioranza, cioè, non sapeva nulla, anzi, tra loro c'era tanto ignoranza. E quelli che sapevano come me, dice la donna, dicevano che tanto in Italia gli ebrei non sarebbe successo di nulla. Qualcuno diceva che era una questione politica perché avevamo fatto l'accordo con la Germania. Qualcuno disse che neanche Mussolini le voleva. Pensi infatti, io andai persino dal mio parroco e il mio parroco mi disse, figlio della cara, ci sono dei problemi ben più gravi di queste buffonate della politica. Bene, fa, lo sa quando? Quando ci siamo accorti che cos'è una legislazione in Italia? Dico, no, scusa, nell'ottobre del 43, quando l'SS hanno circondato il portico d'Ottavia, cioè il ghetto a Roma, ha portato via mille ebrei e sono tornati in 29 anni. E la mia migliore amica, che è l'ebreia, non è più tornata. Quello che non ha fatto di ora per me, non voglio più ricambiare. È così, così che si prende. Il fatto che una persona possa mettere una voce su se avevo una delle domande, anche nella... Vorrei sapere più vivamente rispetto ai rapporti di relazione tra persone. Io per esempio quando mi rivolgo agli studenti, quando mi sento, non penso che siano cose, se sono uomini o donne, non mi interessa che non sanno civile. Quindi se avessi anche la studentessa, quell'uomo che ha avuto sulla carta d'identità, sempre la studentessa dell'università, non mi ricordo più di medicina, non avrei nessun tipo di difficoltà. strumentalizzando la religione, di creare all'interno la nostra casa. Perché oggi non esiste in Italia un fenomeno di confusione così allargato. Ma se questi vanno avanti, la creano, rischiano di innescare una reazione pericolosa. Infatti, dovremmo cominciare a distinguere gli omosessuali, che sono una cosa seria, dagli attivisti LGBT che rispondono a altre logiche politiche, economiche, che sono altre. Sapete, sa quanti tanti genitori vengono a vedere? Ma questi cosa vogliono da noi? Noi vediamo, no, attenti, non c'entro gli omosessuali. Queste sono una lobby, perché dietro poi ci potremmo chiedere anche chi c'è. Scusi, posso fare? Chi c'è? Sa, guardate, dietro i falsi ideali, quando c'era, dietro i falsi ideali c'è solo un obiettivo, il business. Voi non avete la più pallida idea della girandola di miliardi di euro che c'è dietro di questo mondo qui. Tra l'altro, sapete, non è un caso che le due donne più potenti di questo studio in Italia stanno volteggiando aspettando che passi la legge, perché hanno già individuato vie e terreni dove istituire. E sapete qual è la prova del nove? Questa, che ai bambini non si insegna che Franco e Tommaso e la famiglia è adottano, no, si insegna che c'è la clinica, quei signori gentili in Italia non è così da lottare. È il business che deve fare la testa del mondo, il business. Detto questo, poi dovremmo parlarci di italiano. Il problema è più semplice: con che diritto lei nega la paternità e la maternità a un bambino, a un essere indifeso, in questo momento soggetto giuridicamente più indifeso? Sai che sta scemando che lei una canzone? Perché siccome sono iniziati un po' prima, tutti questi sono già diventati cammicelli, qualcuno è oltre la maggior età, ha fatto causa ai giudici, hanno dimostrato che hanno avuto un disagio di non avere la maternità. Sono detto, tu con che diritto hai deciso che io dovessi crescere la famiglia? E stanno chiedendo, hanno fatto causa, e stanno vincendo. Lei ha avuto un buon rapporto con sua mamma, se non l'avesse avuto sarebbe stato uguale. No, no, rispondo, scusa. Se lei mi dice sì, ti dico io. No. Negare la maternità e la paternità e costringere i figli orfani per legge è un'aberrazione innanzitutto della vita. Poi lei lo fa a danno di chi? Del soggetto più debole. Perché vedi, due adulti possono fare quello che vogliono. Quello che vogliono. Io, ma ci mancherebbe che io metto a giudicare. Guarda, due adulti possono avere qualunque cosa, ma non può la scelta fatta di tutti consenzienti andare in cima di un soggetto terzo che subisce una scelta. Una domanda che effettivamente le volte, se le volte non sono state preoccupata o è... Anch'io infatti appunto ascoltando, no, quello che mi chiedo e parlando dei bambini nati appunto in queste situazioni che già esistono oggi qui, che mi riferisco anche a Bricino, di figli di due padri o di due madri, mi chiedo quindi che cosa facciamo di questi bambini, no? Nel senso che io capisco che sono temi complessi, ma quando si chiede libertà poi si deve anche dare libertà. Non è che si tratta di dire a qualcuno che deve diventare in un determinato modo, perché mi sembra che dal discorso che lei fa oggi, lei sta facendo oggi, sembra che uno può svegliarsi una mattina e dire che si sente maschio, si sente femmina. Io credo che in Italia almeno non ho mai sentito parlare di questo. E che... C'era l'inizio del telefono? No, sono arrivata dopo, mi scusi. In Italia, scusi, però io frequento, voglio dire, l'università, so che identità di genere si riferisce a tutt'altro piuttosto che alzarsi la mattina e scegliere il proprio sesso, anche perché, scusate, ma credete che veramente gli omosessuali scelgano di essere omosessuali? Eh sì, però si confondono tante cose. Sì, però quando lei prende, scusi, quando lei prende quel libricino e sorride, quando prende quel libricino e sorride che sono nati da un signore gentile, mi può rispondere a me, scusi, come si sente quella bimba in quella classe? Nel libricino non dice che chi nasce da un padre o una madre è sbagliato, dice semplicemente che due donne non potevano avere un figlio e l'hanno avuto in un determinato modo. E scusate, il discorso della fecondazione assistita o della maternità surrogata, forse ci dimentichiamo che per 20 anni in Italia va avanti sulle coppie eterosessuali. I nostri nuovi pazienti sono figli nati con l'eterologa in coppia eterosessuale a cui non è stata detta la verità. La differenza è che gli omosessuali invece la dicono e i loro figli lo sanno. Poi nel futuro uno dice non si saprà, andiamo a vedere che cosa dice la letteratura in Europa o in America. Ci dice che questi bambini non hanno nessuna difficoltà. Capisco che c'è difficoltà, capisco che sono temi complessi. Quello che vi chiedo è confrontiamoci, ascoltiamoci, perché non è che esiste, però non è che esiste uno e non esiste l'altro, si può coesistere insieme, nessuno toglie libertà all'altro. Scusi, solo un attimo, ma lei toglie la libertà ai ragazzini, perché se io, Giorgio Raganelli, vengo a scoprire che c'ho il padre, che i miei due padri che hanno mischiato i semi, l'hanno messo nella pancia di uno e non sono andato così, scopre, a me sinceramente qualche problemino me lo crea, capito? Quindi è la prima negazione, è la negazione della mia libertà. Scusate, però del mio diritto. Ma scusate, noi non è che siamo qua a dire agli altri che devono fare. È una legge, è sinceramente uno Stato, una società che accetta questo, ha scritto. Ma scusate, è il mio diritto dire a un altro se può avere un figlio o no? Io posso dire che per me non va bene, ma posso dirlo a qualcun altro? Perché questa è un'aula nella quale lei non se ne accorge, ma quando parlava spesso non si capiva. scriva perché è amplificato troppo e quindi ridando alcune parole si perdevano. Allora, se c'è da fare un dibattito serrato da persone civili lo possiamo fare anche faccia a faccia in gruppo dopo quando diciamo ci verranno a chiudere eccetera eccetera. Se facciamo di proprio le volte risposta faccia a faccia per non entrare in prima da stadio, che non fa bene nessuna posizione, lo possiamo comunque fare perché il confronto anche polemico va benissimo, possiamo anche diciamo alzare i toni, però se vogliamo sfruttare questi ultimi 5-10 minuti che ci restano, facciamo diciamo in maniera un po' più programmatica. Prima di dare, scusa se ti ho esaustato la parola, prima di darti la parola, io ci tenevo nell'ambito del dibattito, semplicemente in maniera secca, quindi chiedo scusa all'interlocutore, a rispondere a una serie, no ma tanto mi sentite, è vero, si sente, il diagramma peggiore addirittura, a rispondere a alcuni interrogativi, non so se a questo punto se erano retorici, a me sembrava retorico, però darsi che mi sbaglio, che giustamente tu poni, che ti ho detto, io sono nelle domande che faccio, non giudico, nel senso che non so giudicare a cosa risponde la politica di Facebook di moltiplicare, no? Le opzioni disponibili rispetto all'identità di una persona, no? Allora, dal mio punto di vista, che secondo me dovrebbe essere il punto di vista dell'accademia, cioè io ho le questioni interne della parte, ho fatto uno sforzo incredibile perché la parte mi veniva di reagire. Allora, la risposta potrebbe essere dietro quella scelta c'è una concezione di ordine. C'è una concezione libertaria, c'è una magari legata agli scopi di carattere mercato, come senso, e non ti nascondo, se c'è una concezione scelta, noi dobbiamo imparare a distinguere, almeno a tentare di distinguere. Allora, Facebook nel momento in cui fa una società del genere, non lo fa perché ha una concezione ideologica, non lo fa perché in mano ha una lobby, né perché ha una concezione scientifica, verrebbe derisa immediatamente, ma proprio perché in questo campo non esistono delle verità. Al massimo esistono delle registrazioni dei dati di fatto, ma ciò che è un fatto non è detto che sia vero o giusto, ok? Allora che fa? Sceglie una concezione libertaria che è conveniente e coerente allo spirito del tempo, non è detto che sia giusto, allo spirito del tempo con tutti i pro e i contro, perché c'è il pro che consente a qualcuno di dire io non mi voglio definire così e quindi mi danno la possibilità di definirmi in mille modi, così come in un questionario ci sono 14.000 item, in quel caso ne hanno fatto 14.000. Probabilmente è dei conto perché è fatta in riferimento ad un ragionamento di pura convenienza economica e di consenso, ma tutto il mondo diciamo funziona così. Quindi, diciamo, io non mi spaventerei, adesso entriamo nell'ottica personale, non più diciamo che quella che tende ad essere asettica e sociologica, perché Facebook fa questo ragionamento? Dal punto di vista personale io diciamo non mi spaventerei perché se voi avete una posizione etica, di valore, di riferimenti, di idee, diciamo, dal mio punto di vista, diciamo, la vostra posizione di vita non è quella, dal mio punto di vista, però questo è fuori dal discorso. Poi vorrei ribadire, e poi innanzitutto, che l'identità di genere è definita scientificamente non soltanto in termini di autopercezione, altrimenti sarebbe davvero troppo facile. L'identità di genere è definita in termini relazionali, cioè non basta io, ci vuole l'altro. Io posso fare dei grossi sforzi per apparire afferente a un genere che è il contrario a quello che il mio sesso potrebbe dire o il mio corpo potrebbe far percepire. Ma finché ci sia un concetto di identità, l'identità è un concetto relazionale, non basta che io scelgo il limite della mia ragazza. L'identità è sempre un riferimento con l'esterno. Se all'esterno vengo concepito per quel genere, allora quella è l'identità di genere. Il genere fa riferimento alle registrazioni di fattore di ciò che è socialmente costruito. Ecco il riferimento di un'identificazione. Ho fatto riferimento al fatto che il genere inizialmente nasce un concetto sociale per dare importanza all'impatto sociale che deriva dal fatto, visto che per esempio negli Stati Uniti d'America è un po' grossa, sinceramente. Mentre nei paesi latini, nei paesi dell'Europa occidentale, è concepito come un gioco maschile. Noi usiamo il genere per dire che quello sfocia in un territorio, adesso diciamo che è percepito maschile, è un territorio che è percepito come forza. A partire dalla costruzione finale, nel corso del tempo, scientificamente è stato legittimato che esistono anche in genere. Questo al stesso. Quindi, dal punto di vista semantico, se ho capito bene, non siete d'accordo e contrastate queste cose, la possibilità che presente due genitori delle due persone dello stesso sesso, non dello stesso sesso, abbiano praticamente un figlio. Secondo me, dal punto di vista politico e scientifico, avreste più successo se sottolineaste l'importanza del discorso legato all'ideologia dell'identità sessuale, non all'ideologia del genere. E poi anche qualcuno dei LGBT faccia la stessa operazione semantica di parlare di teoria del genere, quando le teorie di genere sono infinite, perché non esiste una teoria scientifica. Uomo e donna non sono un sesso. Esatto. Questo è il cambiamento. Io la domanda che faccio è questa, cioè siamo ancora, siamo ancora sul discorso del genere, la percezione mia relazionale, oppure ci stiamo proprio la percezione. Scusate. Non si sente niente, parlate da soli, non si sente niente. Scusate, il problema non è tanto Facebook. Posso dirvi una cosa? Forse Facebook ci serve. Avvocato, un attimo. Avvocato, mi pensi. Un attimo. Ha fatto un'azione. Voglio essere brevissimo. L'identità di genere. Le persone non si alzano la mattina e decidono se uscire per strada e essere discriminati, se non poter prendere un pacco alla posta, se essere licenziati. Non si decide di essere presi per il culo a scuola da ragazzini perché si gioca con le bambole anziché come ci si aspetta con le macchine. Non è questo. Nessuno sceglierebbe questo. Vi rendete conto? La nostra amica che insegna alle elementari si dovrà confrontare con bambini e con bambine che hanno identità multiple nella sua esperienza. E ci saranno anche bambini biologicamente maschi che magari vorranno giocare con le bambole. Che farà la nostra maestra? Li picchierà obbligandoli a giocare con le macchinine perché è sconveniente? No, si dovrà confrontare con questa realtà e non appena la percezione di come uno si alza la mattina se vuole tenere la riga di lato o la riga al centro. È una questione più seria che riguarda l'identità profonda delle persone e seriamente andrebbe trattata, non con una ringa come se fosse Perry Mason, avvocato, perché Perry Mason lo lasciamo, è un grosso personaggio, Perry Mason è un'altra cosa. La storia di Tommaso e Franco è una storia, avvocato, la storia di Tommaso e Franco è una storia vera. Nancy è una persona vera, ha lasciato un'intervista all'Anno 1 qualche settimana fa, cioè è una donna americana, non è indiana, e ha raccontato la sua storia. Chi va in India sono tantissime coppie eterosessuali che hanno problemi e lo sfruttamento della povertà, come diceva la professoressa, è un crimine, ovviamente, ma non attiene alle coppie omosessuali di uomini, attiene per la stragrandissima maggioranza a coppie eterosessuali non fertili. Quindi raccontiamo la storia com'è, se la vogliamo raccontare. E i figli, nessun figlio decide di nascere. Se dobbiamo dire l'opportunità di nascere in una famiglia più ricca o meno ricca, di persone più o meno colte, di persone più o meno abbienti, di persone più o meno criminali o meno, nessun bambino sceglie di nascere, non scelgono di nascere neppure i bambini delle famiglie eterosessuali, e sono in quelle famiglie dove si registrano spesso le violenze e sono in quelle famiglie dove ci sono i femminicidi, non nelle famiglie delle persone omosessuali. Posso? Una domanda velocissima. L'ultima, il presupposto di questa conferenza è appunto la fiducia. Io ho letto anche parte la fiducia, perché io so che l'interlocutore che mi sta parlando mi dice delle cose alle quali io giustamente credo perché mi ripongo nella sua fiducia. Ha parlato di un progetto in una scuola di Roma in cui un'associazione, com'è che si chiamava? Scosse, andava a truccare i bambini. Qual è la scuola? Qual è la scuola Mattei? Abbiamo fatto un intervento anche a te. La Mattei? È stata precisata. Scusi, le persone dell'associazione Scosse andavano a truccare. Hanno dimenticato che è un progetto. No, educare le differenze, che è la scuola fa differenza, fa formazione agli insegnanti, non fa formazione ai bambini. Fatto dall'associazione Scosse. Assolutamente. Non me ne sono mai accorto. Non voglio fare lucidarino. No, non me ne sono mai accorto essendo di quella. Lavorando con i bambini. Vogliamo fare una cosa che è un personaggio veramente. Si sente niente. Questo è uno dei pochi casi dove è un caso di amplificazione di rovina. Il ragionamento che ho fatto è, dal punto di vista scientifico, a pensare in un'unica. Quello che io voglio far sottolineare è che purtroppo la traduzione pratica di questa cosa non può. Io ho fatto due esempi, mi piace la signora di Tremizia. Cioè quello che si sta intendendo per l'identità a livello giuridico, giuridico vuol dire legge e magistratura, non è un ragionamento. Ripeto, l'articolo 1 lettera B del testo base, che è stato sintomatico. Due punti importanti, seguite bene il tema. Ai fini della legge penale si definisce l'identità di genere la percezione che un soggetto ha di sé come appartenente al genere maschile o femminile e anche se fosse possesso di detto così non c'è un sociale sulla base giuridicamente, e questo cosa vuol dire? Che la prima sezione civile del Tribunale di Messina si cerca la sentenza sulla base di questo ragionamento ha riconosciuto il diritto del ragazzo di modificare la carta di identità senza fare dubbi. Quindi un conto è quello che la scienza ci può dire, un conto è come questa scienza si traduce poi praticamente, perché il ragazzo di Messina di 21 anni è un essere umano che ha un caso, una storia, un problema, il tribunale è un intervento, non è la spiegazione. posizione del professor Tizio della Medici. Quindi dobbiamo stare attenti che secondo me c'è una responsabilità. Ma secondo lei ha cambiato sesta per accedere alle quote di Moncio? Ma è ridicolo, ma dai. Ma peraltro non ci sono in Italia le quote, cioè. Sì, dai, c'è un professore Palmieri. Parlate da soli. Un attimo, una cosa per volta, per favore. Ma non sentiamo. Ma purtroppo, e di che deve essere frutto? Va bene. Sarebbe un grande gioco.